757. Gelato di pesche. Pesche burrone ben mature del peso, compreso il nocciolo, di grammi 400. Zucchero grammi 250. Acqua mezzo litro. Un limone di giardino. Tre anime tolte dai noccioli delle medesime. Queste pestatele fra lo zucchero e mettetele a bollire nell'acqua per 10 minuti. Passate la polpa delle pesche, strizzateci il limone e, mescolato ogni cosa, tornate a passare il tutto da un ostaccio ben fitto. Potrà bastare per 6 persone. 758. Gelato di albicocche. Albicocche saporose e ben mature, pesate col nocciolo, grammi 300. Zucchero bianco fine, grammi 200. Acqua mezzo litro. Un limone di giardino. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti. Uniteci quando è ghiaccio la polpa delle albicocche passata dall'ostaccio e il sugo del limone. Tornate a passare il composto avanti di metterlo nella sorbettiera. È una dose abbondante per 4 persone.